Incontri di Gianfranco Fabi. Queste note, Revolution dei Beatles, una canzone degli anni 60. Iniziamo l'incontro di oggi e prima di svelare l'identità di chi incontriamo gli chiediamo come mai ha scelto i Beatles gli anni 60 questa canzone. Beh, perché mi sposo e poi vado a Oxford 3 anni, in quegli anni magici che erano ancora appunto gli anni 60. Oxford, gli anni 60, l'Inghilterra, però un ragazzino di provincia, ero nato a Piacenza, avevo fatto tutte le scuole lì e poi l'Augustinianum, il mitico collegio dell'Università Cattolica, diciamo che era un sogno e si è realizzato, come quasi tutti i miei sogni. Giacomo Vaciago, buongiorno. Buongiorno a tutti. Giacomo Vaciago è ordinario di economia all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore e tanti altri incarichi, consulente in passato, di ministri, di importanti società. È stato anche sindaco nel secolo scorso, sindaco di Piacenza. Sì, una cosa bellissima, 4 anni incredibili. I primi sindaci eletti dai cittadini che si aspettavano da noi moltissimo e ci siamo tutti impegnati moltissimo. Oggi quella riforma sta regredendo purtroppo. Ecco, magari torniamo su questa vicenda, su questa esperienza. Beh, io ritornerei all'inizio. Come fa un giovane adesso, partendo dalla provincia, ad arrivare ad Oxford e poi ad arrivare a avere incarichi importanti a livello appunto scientifico o economico? Beh, deve anzitutto decidere cosa vuol fare da grande. Io avevo la passione per l'economia, me l'ero fatta al liceo classico, un buon liceo di provincia, ma allora c'era grande qualità ed eccezionali professori. Me l'ero fatta al liceo classico leggendo molto, leggendo i libri giusti, studiando i tempi romani, i greci, il Rinascimento. Cioè, il liceo dei miei tempi ti dava la sensazione di quante grandi cose avesse fatto questo paese. E negli anni 60 eravamo anche convinti che le stavamo ancora facendo grandi cose. Il dopoguerra è un periodo straordinario di ricostruzione. Ma quindi è andato ad Oxford con l'idea di tornare in Italia, non di restare? Assolutamente sì, assolutamente sì. Fino alla mia generazione si andava qualche anno all'estero, si mantenevano rapporti. Io negli anni successivi tornavo su coi figli che dovevano imparare l'inglese e approfittavo di fare il visiting ai college famosi di Oxford ogni 2 o 3 anni, diciamo. Quindi si mantenevano rapporti, ma si cresceva qua. Oggi anche quello non è più vero. Oggi se te ne vai, il mio ultimo caso, il mio figlio che 20 anni fa va a scuola media e liceo a Oxford, più tornato. Non è più tornato. Quanti figli ha, professor Vaciago? 4, sto aspettando il 10° nipotino, a giorni arriva. Anche questo è una, diciamo, una simmetria statistica rispetto alla media italiana. Beh, attenzione, la mia generazione ancora credeva che la cosa più bella che puoi fare sono i figli. Adesso si fanno magari uno a 50 anni, che è un po' tardi, e non si capisce che la famiglia è bella con 3 figli, non con uno. E quindi anche questo dimostra un po' di mancanza di prospettiva, di fiducia nel futuro, di voglia di costruire in fondo. No, attenzione, io non sono mai pessimista. Su 60 milioni di italiani ce n'è tantissimi che ancora lavorano per il futuro, investono, credono e così via. Il guaio è che lo fanno in tutto il mondo e sempre meno qui. Io incontro tanti bravi imprenditori, di solito negli aeroporti, non più in Piazza Duomo come una volta. Beh, è un buon segno questo, vuol dire che si muovono, penso che siano vuol negli aeroporti. Dire che fanno crescere il PIL del mondo più che il PIL italiano. L'Italia fa parte del mondo, dobbiamo consolarci forse così, riuscire ad essere aperti alla globalità. Io tornerei un attimo ad Oxford, e da Oxford poi mi sembra lei è andato ad Ancona. Sono rientrato a Milano un paio d'anni, ho avuto un'offerta ad Ancona, anche questo oggi è sempre meno vero, la mobilità sul territorio. Mi offrirono una prospettiva di inserimento in un gruppo di ricerca vitale come era negli anni 70 Giorgio Foà, e quindi armi e bagagli, moglie e figli, per intenderci, con tre bambini mi sposto e vado a vivere a Ancona qualche anno della mia vita. E ci sono cresciute e ci si stava benissimo. Ancona allora era un posto incredibile, perché Foà aveva portato lì tutta la sua squadra, da Spaventa a Pedone, a Ruffolo, a Cassese, cioè quelli che con lui avevano fatto l'ufficio studio ENI a Roma. Enrico Mattei, Giorgio Foà e una banda di gente incredibile. Allora il meglio era ancora nel settore pubblico in questo paese. Oggi di nuovo è tristissimo vedere quanto poco il settore pubblico, con le eccezioni di Banca Italia ovviamente, riesce ancora a contribuire a capire il mondo. Foà è stato un grande interprete della realtà economica italiana. Attenzione, anche lui è un prodotto di scuola. Parte con Olivetti e cresce con Mattei. È l'interprete. È l'accademico del principe, che è un modello che l'Italia ha prodotto tante volte nei secoli. Quali sono state le personalità insieme a Foà che lei ha incrociato, che l'hanno aiutata a compiere questa carriera? A Oxford John Hicks, premio Nobel dell'economia, grande teorico, e ancora adesso rileggo i suoi saggi. In Italia Foà è la scuola della Cattolica, dove poi sono rientrato con Mazzocchi, Giancarlo Mazzocchi, Vito e così via, Pasinetti e tutta la scuola ottima, Romano Prodi della Cattolica, Andreatta e così via. Quindi diciamo, e poi tutta la banda degli amici di Foà, come dicevo, da Luigi Spaventa a Giorgio Ruffolo a Sabino Cassese, è stata un'esperienza straordinaria. Ci sono dei giovani economisti adesso che promettono bene? Sì, li trovo in tutto il mondo. Quindi anche italiani? Anche italiani, moltissimi italiani in giro per il mondo, ma in posti strani, in banche centrali europee. Cioè, mentre una volta erano Oxford, Harvard o MIT, diciamo, dove sono andati Draghi e gli altri, e Giavazzi e così via, mentre erano pochi, oggi la qualità italiana fa da semente in infiniti posti. Ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. Con questo brano dei Beatles riprendiamo il nostro incontro con Giacomo Vacciago, ordinario di economia all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, esperto di temi economici. Abbiamo percorso nella prima parte del nostro incontro un po' la sua carriera, proprio ricordando gli anni 60, gli anni dei Beatles, gli anni in cui da Piacenza era andato ad Oxford a imparare i primi rudimenti dell'economia. Professor Vacciago, un'economia che è veramente una scienza triste, come talvolta viene definita? Direi di no. Nella misura in cui ti aiuta a capire il mondo e a migliorarlo quando necessario, è tutto meno che triste. E certo, iniziamo sempre dai problemi, iniziamo sempre dai guai, e quindi è come il sismologo che misura i terremoti, poi però deve esserci la parte propositiva. Capire il mondo e capirne i problemi in questi anni di rapido cambiamento chiaramente non è stato facile, e infatti direi che proprio in questi giorni abbiamo la netta sensazione di essere governati da persone che non hanno capito il nuovo mondo in cui viviamo. Ecco, rispetto a 50 anni fa, l'economia ha avuto e ha dei ritmi di cambiamento molto più rapidi che in passato. No, diciamo che c'è stata una svolta epocale. Cade un muro a Berlino e il mondo cambia. Non c'è più il primo, il secondo e il terzo. C'è l'economia di mercato, più o meno buona, in tutto il mondo che conta. lasciamo perdere la Libia e Cuba, che sono strani episodi, però guardiamo il 90% e passa della popolazione dove vive oggi, in economie dove la qualità del mercato decide la produttività e seleziona le aziende. Se il mercato è cattivo, come era negli anni scorsi il mercato finanziario, sembrava efficiente, ma non lo era, poi si rompe. Quando si rompe, come dopo un terremoto, hai le macerie. Oggi abbiamo tutte le macerie, soprattutto nei paesi che più si erano illusi di essere vincitori della grande competizione, pensiamo agli Stati Uniti, hai le macerie di un mondo fragile che aveva aspetti positivi e negativi, non capiti, non curati, si è rotto. Come ne usciamo? Prendiamo un caso emblematico. Si diceva che con l'innovazione finanziaria tutti i prodotti finanziari avevano un prezzo giusto. In realtà abbiamo scoperto solo dopo che gran parte di quei prodotti non erano di mercato, erano cosiddetti OTC, over the counter, cioè scambi bilaterali, riservati, senza statistiche e senza prezzi di mercato. Addirittura non avevamo nemmeno conoscenza dei dati, abbiamo stime sulla dimensione dei flussi e degli stocks. Ma allora tutta la teoria dei mercati efficienti mica si applica a quella roba lì, che non era un buon mercato. Se lo scambio è bilaterale, riservato, confidenziale, non ci sono nemmeno le statistiche, che razza di mercato siamo è? In un mercato truccato, un mercato in cui si gioca a carte coperte e a carte anche false certe volte. Ho scritto che è stato il fallimento del quasi mercato, del no mercato, non i fallimenti di mercato. Però attenzione, quello che avveniva, le banche centrali e i governi lo sapevano, non era mica attività criminale segreta, lo sapevano e credevano che funzionasse, quando in realtà i sintomi che si accumulavano, i problemi, c'erano tutti. Adesso come ne usciamo non è mica ancora chiaro. Il presidente degli Stati Uniti ha capito quali sono i problemi del suo paese. Incomincia a farlo Cameron a Londra, dove ha detto dobbiamo tornare a equilibrio di bilancio pubblico in pochi anni e quindi bisogna risvoltare l'Inghilterra, l'economia inglese, come un calzino. Ah, non è mica uno scherzo. Indubbiamente, anche perché gli ultimi anni, prima della crisi, anni di forte crescita, era una crescita fondata molto sul debito, qualcosa che non può crescere all'infinito. E gli economisti sono accusati spesso di non aver dato l'allarme in tempo di quanto stava succedendo. Si sente coinvolto da questa accusa? In parte non facevamo le somme, cioè si partiva dalla premessa che se ciascuno di noi fa debiti, non essendo stupido, sa ciò che fa. Ma questo che può essere vero per il singolo, se tutti stanno facendo la stessa cosa, certo, diventa un problema sistema. Allora, l'eccesso di indebitamento da stupidità umana non esiste, perché nessuno è così stupido da fare debiti che non potrà mai ripagare. Però se tutti fanno troppi debiti perché i tassi sono troppo bassi, perché la cultura economica, questo sì, è che la cosa che conta è spendere, risparmiare è demodé, beh, a quel punto c'è un eccesso di debito, che sia privato o pubblico non rileva, il problema poi è come lo ripaghiamo. Oggi è chiaro a tutti che dobbiamo tornare a un mondo di equilibrio, di bilanci, bisogna tagliare, tagliare, tagliare, ridimensionando il mostro che abbiamo creato, che è un mostro pubblico che vive di debito, cioè i figli che non abbiamo fatto pagheranno i nostri conti. Quindi questo vuol dire che in futuro dobbiamo rassegnarci ad essere più poveri che in passato. No, dobbiamo rassegnarci a ricostruire un'economia. Siamo esattamente come nel 45. Non abbiamo capito che la guerra è finita e non abbiamo ancora rimboccato le maniche con l'entusiasmo della ricostruzione. Guai a farci prendere dal pessimismo, perché allora è ancora peggio. Guardiamo la Germania. La Germania negli anni scorsi ha rimodernato la sua industria, l'ha preparata per il terzo millennio e oggi va benissimo. Non c'è più quel pessimismo cosmico di qualche anno fa. Oh, la Merkel aumentò l'IVA di 3 punti al 19%, mandando il messaggio: fermare i consumi, via con gli investimenti. Beh, questo è quello che vediamo tutti i giorni che serve a questo paese, al nostro paese. Beh, è una... Se il governo mandasse messaggi positivi, rimbocchiamoci le maniche e ricostruiamo il paese. C'è un esempio che mi faceva un amico nei giorni scorsi, diceva: in fondo i tedeschi dimostrano di avere fiducia nella responsabilità delle persone, nella capacità dei singoli di gestire se stessi, e lo dimostra come un esempio molto banale: non ci sono limiti di velocità sulle autostrade, perché ognuno sa dove può arrivare. L'Italia invece è il paese dei limiti, dei controlli, delle autorizzazioni, forse è questo che ingabbia un po' il nostro paese. Beh, diciamo che noi abbiamo un atavico disprezzo per ciò che è pubblico. Ci va benissimo quando lo manifestiamo nei confronti del governo, dell'attuale governo. Dovremmo imparare dai tedeschi che forse eleggere un governo di cui ti vanti è meglio. Certo, quindi la responsabilità privata resta comunque al centro. In questa prospettiva, il mestiere dell'economista è anche quello di fare previsioni. Si chiede all'economista di dire dove stiamo andando. È possibile fare previsioni o è temerario in una situazione in cui molto, quasi tutto, dipende dalle scelte delle persone? No, le previsioni si possono fare, certo devono sempre essere condizionate. Io le faccio quasi ogni mattina quando mi alzo, prevedo che oggi non pioverà perché eccetera eccetera. Devi sempre far presente che il primo ruolo dell'economista è quello di vi aiuto a capire. E quindi fondamentale è spiegare a tanti, in base a ciò che abbiamo studiato, cosa diavolo sta succedendo, eccetera, eccetera. Dopodiché, sulla base delle condizioni che tu assumi, puoi fare previsioni, certamente. Io sono molto più pessimista oggi sugli Stati Uniti, per tanti e fondati motivi, che non paradossalmente sull'Europa. Attenzione, faccio una battuta. Il sapere, se è copiabile facilmente, la leadership americana era sull'innovazione tecnologica e il sapere, le università migliori del mondo, la ricerca, eccetera. Peccato che se il sapere rimane nella fase dell'università e così via, è facilmente copiabile. Al sapere devi abbinare anche il saper fare, cioè la cultura del manifatturiero. Questa la ritrovo in Germania, la ritrovo in Europa, in Italia il saper fare conta. Il sapere americano è comprabile sui mercati, copiabile soprattutto. Basta vedere nell'ICT, che era il fiore all'occhiello dell'America 10 anni fa, e oramai sta passando altrove. La leadership americana sta finendo perché non hanno combinato al sapere il saper fare. Ma comunque le grandi innovazioni nell'ambito dell'informatica, delle telecomunicazioni, dei computer sono ancora americane. Sì, poi però, dopo le costruiscono i coreani. Però esatto, però poi vedo che la Corea li raggiunge in pochi mesi. Una volta la leadership americana durava 20 anni e se avevi i migliori cervelli del mondo e le grandi università era fatta. Oggi purtroppo la leadership intellettuale, scientifica non basta più. Il saper fare conta quanto il sapere. L'italiano, gli italiani sanno fare. Tuttora sì, purtroppo anche qui non hanno il sapere, perché a noi paradossalmente le grandi università e i grandi cervelli li abbiamo trascurati. I nostri migliori ricercatori andavano in America in questi anni. Si dice che in Italia l'industria fa innovazione senza ricerca, può essere questa la strada, fare innovazione con l'intuizione, con il bello, con la capacità del design. È tutto vero, però anche lì il problema è quanto dura, quanti anni conservi una leadership se non hai l'insieme del sapere nuovo e del sapere fare bene. Allora, senza università tu dipendi dalle università altrui e alla fine copi e migliori un prodotto che non è tuo. Nelle ultime innovazioni l'Italia non c'è più. L'Italia sta curando il lusso per i ricchi del mondo, ma ci va bene solo quando tutto il mondo va bene. Beh, in Cina sta crescendo una classe media che ha grandi capacità di spese, speriamo che possano essere acquirenti di prodotti italiani. Sì, ma siamo 60 milioni, rischiamo di diventare camerieri se non siamo anche quelli che inventano un way of life che ci dà una leadership. Nelle fasi del Rinascimento noi dettavamo le condizioni e venivano qui a imparare. Possiamo concludere, io penso che possa essere valida l'impostazione un po' inaudiana, siamo di fronte a un pessimista della ragione e a un ottimista della volontà, professor Vaciago. Beh sì, dovremmo solo dedicare più tempo e cervello a ciò che è pubblico, cioè di tutti, e cominciare dal governo. Non è possibile che vanno in politica non più i migliori come una volta. E quindi anche l'esperienza di sindaco in questo senso le ha insegnato che il pubblico va difeso ma però se sta entro i suoi confini. Beh, se il pubblico si continua a porre il problema di essere anche il meglio, cioè c'è una ricerca di qualità nei servizi che dai ai cittadini che deve essere fondamentale. Ringraziamo il professor Vaciago per essere stato con noi questa domenica mattina. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domenica prossima.